100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Con Deborah Rosciani. Ci avviciniamo sempre di più a due appuntamenti politici che, anche se molto distanti geograficamente, promettono di essere un test importante per i mercati finanziari. Il referendum italiano sulla riforma costituzionale e le presidenziali americane. Sembra abbastanza probabile che le prossime settimane vedranno gli operatori concentrati su questi temi, oltre che sulle solite indicazioni di politica monetaria da parte delle banche centrali. La settimana scorsa, positiva per i listini internazionali, la Banca Centrale Europea di Mario Draghi ha comunicato che il programma quantitative easing prosegue fino a marzo e forse continuerà anche oltre, rimandando ogni decisione in merito alla prossima riunione di dicembre. Mentre dicembre sembra essere il mese indicato dalla Banca Centrale Americana per tornare ad aumentare i tassi di interesse dopo l'intervento effettuato un anno fa. Su queste attese l'euro ha perso terreno sul dollaro, portandosi ai minimi da 7 mesi. Il delicato tema bancario europeo ha visto ancora in movimento due protagoniste, Deutsche Bank e Monte dei Paschi. Per la banca tedesca ci sarebbe la disponibilità di fondi sovrani arabi di entrare nella ricapitalizzazione, più o meno le stesse indicazioni che hanno spinto anche la banca senese, pronta alla presentazione del piano industriale che avviene proprio oggi da parte dell'amministratore delegato Morelli. Mentre tra i titoli particolarmente penalizzati, Mediaset per la rottura con Vivendi, che sembra a questo punto definitiva, e la soluzione del rebus sulla TV a pagamento premium finirà probabilmente in tribunale. Da ricordare sul mercato obbligazionario, che si è chiusa appunto con una raccolta di oltre 5 miliardi, la decima emissione del BTP Italia. Per i temi da monitorare in settimana, in Europa occhio all'indice IFO tedesco, negli USA decine di trimestrali e il PIL del terzo trimestre, abbiamo un meeting Russia-OPEC a Vienna sull'eccesso di offerta di petrolio e poi molto importanti trimestrali italiane, Luxottica, Fiat, Saipem, STM, Recordati ed Eni. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alessandro Plateroti. La guerra delle comunicazioni è tornata nel vivo. Il tentativo di fusione lanciato da AT&T su Time Warner, un'operazione da oltre 86 miliardi di dollari, una delle più alte nella storia delle telecomunicazioni, ha riacceso soprattutto i riflettori sulle occasioni e sulle opportunità, non soltanto guardando avanti, ma anche quelle guardando indietro. E questo riguarda soprattutto noi italiani. È bene ricordare che AT&T, il colosso delle telecomunicazioni storico nel mercato americano, la prima compagnia telefonica degli Stati Uniti, quella da cui partirono poi le Baby Bell, beh, insomma, due volte si è affacciato sul mercato italiano. Stiamo parlando di Telecom Italia. In due occasioni AT&T si era fatta avanti con noi per cercare un'alleanza strategica proprio con Telecom Italia, trovando però la porta chiusa. Lo fece prima con Tommaso Tomasi di Vignano, all'epoca subito dopo la privatizzazione della compagnia, e poi nuovamente con Marco Tronchetti Provera, l'ultimo che era arrivato a un passo da un accordo strategico con AT&T, che avrebbe portato anche oggi Telecom Italia nel grande salotto internazionale delle comunicazioni, fu proprio Tronchetti che, costretto a vendere dopo le polemiche, lo scandalo delle famose dossier illegali, beh, insomma, cercò di chiudere con AT&T, ma fu respinto anche là dagli altri azionisti. Con scarsa lungimiranza, possiamo dire ora, visto che proprio AT&T è diventato un po' l'operatore globale non della telefonia, ma dell'integrazione fra televisione, telefono, internet, streaming e tutte le altre tecnologie della comunicazione che proprio oggi fanno la differenza tra società che sopravviveranno alla rivoluzione del web e società che spariranno. Certo, oggi Telecom Italia ha un management forte a guidarla, ha nuovi azionisti da cui però ci si aspetta dei passi concreti per rafforzare la compagnia e non pensare soltanto agli interessi della Francia. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.